Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. La musica d'arte ha due punti importanti nella comunicazione, che sono quello di essere un oggetto artistico che sicuramente colpisce la sensibilità emozionale, ma è anche un oggetto artistico che ha una sua grammatica e soprattutto una sua architettura. E questo è l'elemento razionale della percezione, della fruizione della musica. Sull'elemento grammaticale accenneremo appena durante questi incontri, perché la grammatica musicale è una cosa estremamente dettagliata e, se vogliamo, anche per certi versi arida. Sulla parte architettonica o formale ci incontreremo spesso, perché tutta la storia della musica, e in particolare degli ultimi tre secoli, quella che tratteremo in questa guida all'ascolto, mostra le variazioni che sono state apportate nel tempo ai brani sinfonici, ai brani cameristici, e come l'architettura di questi brani si è evoluta con l'evoluzione del gusto musicale, della società che fruiva di questi elementi sonori, e quindi come la musica sia uno dei tasselli per raccontare la storia dell'uomo. Per fare questo, oggi cominciamo a entrare un po' più nel dettaglio. Questa guida all'ascolto vuole avere anche un aspetto maieutico, un invito ad andare poi ad ascoltare tutto quello che c'è intorno a questi lavori di cui parliamo. Mozart nacque a Salisburgo e lì cominciò a studiare musica con il padre. Il padre, che era un musicista, uno dei violinisti della corte di quello che era il principe di Salisburgo, il principe Colloredo, arcivescovo di Salisburgo, che come tutte le corti imperiali aveva un'orchestra, un teatro di corte, un'orchestra dentro al teatro di corte, e Leopold Mozart era uno dei musicisti dell'orchestra. Si ritrovò questo bambino particolarmente dotato. Ecco, al di là di tutte le leggende sul genio di Mozart, sicuramente geniale lo fu, come probabilmente nel tempo lo sono stati molti altri fanciulli. È chiaro che nel caso di Mozart, di Wolfgang Amadeus Mozart, la presenza di Leopold, musicista, padre e insegnante, se dal lato umano fu problematica, dal lato artistico fu estremamente stimolante. Le prime composizioni di Wolfgang sono di quando era un bambino di 6 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni. Ovviamente in questi casi c'è da chiedersi quanto queste composizioni fossero trattate dalla correzione del padre musicista, artigiano della musica, musicista professionista in ambito strumentale. In più, all'epoca, e fino a Beethoven questa pratica sarà in auge, c'era la pratica del manageriato degli enfants prodiges. C'era un vero e proprio circuito. Passavano da una corte all'altra, dove ovviamente si esibivano e dove ricevevano a volte lauti compensi o comunque la famiglia, e quindi un vero e proprio mercato nel quale Leopold entrò, con la possibilità di esibire questo figlio particolarmente dotato di creatività musicale. Anche la sorella Nannerl fu portata nelle corti senza quella qualità, almeno per quello che si conosce. Certo è che in ogni caso una ragazza compositrice un grande seguito nella vita artistica non avrebbe avuto. Basti vedere il caso di Fanny e Felix Mendelssohn, con una musicista validissima, Fanny, e un fratello altrettanto valido, Felix. Con le lettere che scriveva il padre, diceva: per te la musica sarà sempre solo un diletto, per Felix sarà una professione. Ma era la storia, era la società che imponeva questo. Certo è che Wolfgang cominciò a girare l'Europa. Il primo grande giro cominciò quando aveva appena 6 anni, e lì si trattava di giri di un anno e mezzo, di assenze dalla città, magari per visitare 3 capitali, ma quello che oggi potremmo fare in 4 giorni, all'epoca erano vere e proprie migrazioni verso altre corti e altre capitali. Un secondo grande viaggio lo fece nel 1760, quando venne per la prima volta anche in Italia. Arrivò fino a Bologna, andò anche a Firenze, ma si fermò qua, dove studiò per un breve periodo con padre Martini, che era il punto di riferimento in Italia della composizione dell'epoca. Diede l'esame di accademico e poi continuò il proprio pellegrinaggio con il padre. Nel 73, quindi Mozart 17enne, il principe Colloredo lo nominò concertmeister dell'orchestra di corte a Salisburgo. Il concertmeister era il primo violino, la spalla, colui che aiuta il direttore d'orchestra, anche se poi all'epoca in realtà il concertmeister era ancora più importante, perché un vero e proprio direttore d'orchestra non c'era. All'epoca il concertmeister era colui che comunque doveva guidare l'orchestra. Ecco, nel 74, nel pieno di questa attività, scrive questa sonata. Il K282 sono 5 sonate, 279, 80, 81, 82 e 83, che Mozart scrisse in un unico periodo, il 1774, a Salisburgo, nel momento in cui era stato da poco nominato concertmeister dell'orchestra di corte. È una sonata in tre movimenti. È importante questo fatto perché nella seconda metà dell'Ottocento Haydn aveva nobilitato quello che era una forma musicale chiamata forma sonata, che era il modo di scrivere una composizione in più parti, perché potesse essere a pieno titolo inserita in quello che era la forma nobile una divisione dell'opera in quattro parti. Il primo movimento avrebbe dovuto essere di carattere allegro, il secondo movimento un lead, un canto, il terzo movimento una danza, solitamente un minuetto, e il quarto movimento un brano brillante, di solito un rondò, una danza che ha un tema che ritorna, quasi un tema ritornellato. Ecco, queste quattro parti, di cui una sinfonia è quasi sempre composta, nella sonata a volte ne veniva tralasciata una, di solito veniva tralasciata a volte la danza, il minuetto. In questo caso Mozart tralascia il primo movimento, l'allegro iniziale, e comincia da un adagio. La cosa emblematica è che l'inizio con un adagio è un inizio quasi in sordina, mentre l'allegro brillante in qualche modo è un'esplosione di gioia, di felicità. Un adagio per iniziare è quasi un'entrata dalla porta di servizio. Ecco, però questa sonata presenta delle caratteristiche che sono tipiche della scrittura per strumenti dell'orchestra, quello che fino alla creazione del fortepiano non era possibile. Col clavicembalo il suono era uniforme, c'era il suono a pizzico, e con il pizzico del plettro sulle corde si poteva ottenere un volume che era praticamente uguale che fosse nella parte alta o nella parte bassa della tastiera. Con il fortepiano i martelli, avendo una velocità diversa di percussione, potevano dare al compositore la possibilità di suonare in modo differente le frasi musicali. Questo primo movimento comincia, dicevo, con un adagio che è scritto in tutto il suo svolgimento quasi per tre strumenti ad arco. Quasi l'inizio di un primo violino che sopra gli altri strumenti poi abbiamo la viola, nella parte più bassa del violoncello. Se noi ascoltiamo solo il violoncello e la viola, se ascoltiamo anche col primo violino diventa questo. In pratica si sommano questi suoni come se fossero i suoni di un piccolo insieme di strumenti ad arco. E la forma più conosciuta, più utilizzata per la musica d'arte da camera dell'epoca, Haydn per primo, era il quartetto d'archi. Primo violino, secondo violino, che qui non abbiamo, viola e violoncello. Ora noi li vediamo con una lente che filtra attraverso più di due secoli di storia della musica. Ma c'era un motivo che portava i compositori a scrivere per un piccolo organico di strumenti ad arco. Lo strumento ad arco era uno strumento agile, chiunque se lo poteva portare dietro. Quindi era lo strumento anche per l'amatore e soprattutto permetteva in uno spazio piccolo di aggregare persone per fare musica. Poteva essere una famiglia, facevano musica insieme, come ci si riuniva attorno a un fuoco per raccontarsi delle storie, ci si riuniva attorno a un fuoco e si suonava insieme. Questo primo movimento è appunto un inizio che si rifà a un modello sul fortepiano dell'epoca, quindi oggi sul pianoforte, che riprende le sonorità di un piccolo gruppo di strumenti ad arco. La forma del lead è una forma A-B-A, in pratica una prima parte, alla quale fa seguito una seconda parte di carattere differente, per poi tornare di nuovo alla prima parte. Ecco, in questa prima parte Mozart mette due modelli tematici, come se mettesse due argomenti. Uno più dolce, quello che vi ho fatto sentire. E poi, dopo un paio di minuti, comincia un'altra linea melodica, molto più leggera. Piccolo insieme da camera, violoncello, la viola che fa una parte un po' ingrata perché fa solo un accompagnamento molto, molto banale, e il primo violino che ha la melodia. È chiaro che nel tempo c'è stato Schubert, c'è stato Chopin, c'è stato Brahms, che hanno scritto cose di una profondità enorme. Siamo di fronte in questo caso a un temino che passa una filastrocca, ma Mozart doveva fare i conti con il proprio committente, con il proprio datore di lavoro. Questa musica doveva piacere a chi questa musica l'avrebbe poi accettata o rifiutata, il principe, l'editore. E quindi è chiaro che non si lancia verso temi particolarmente arditi o frasi musicali che possano in qualche modo sconvolgere. Rimane dentro un clima molto tranquillo. Però la cosa notevole è che Mozart, attraverso il fortepiano, può cominciare a dare un colore a queste melodie. Come se fosse un invito a qualcosa, è come se cercasse di chiamare a sé, non a una linea melodica asettica, è come se cercasse di invogliare a un percorso. Questo primo movimento dura circa 7 minuti. Sentirete che ha questo primo tema all'inizio. Dopo alcuni minuti lo risentiremo di nuovo, perché viene ritornellato. Ora, il ritornello cos'è? È la ripetizione esatta di un periodo. C'è la parte A, e quella parte A viene ripetuta esattamente. Poi c'è la parte B e la parte A. Arrivate alla fine della parte A, ripresa, si rifà la parte B e la parte A. Questo avveniva perché adesso ci siamo abituati a dei tempi di fruizione rapidissimi. Ascoltiamo qualcosa e poi passa. All'epoca, un brano ritenuto interessante, bello, alto dal punto di vista estetico, più era ripetuto e più era gradito, perché era un modo per risentire qualcosa di bello. Non c'erano i riproduttori fonici, non c'era la televisione. La ripetizione era come se il compositore dicesse: sì, questo tema mi è venuto bene, ve lo faccio risentire. E questo è il primo movimento, questo adagio anomalo per una sonata classica, anomalo come primo movimento di sonata. Il secondo movimento a questo punto slitta tutto, non c'è l'allegro, quello che di prassi il secondo movimento diventa il primo, quello che di prassi è il terzo diventa il secondo, il minuetto. E qui abbiamo un minuetto che già dall'inizio sentirete l'elemento ritmico è la cosa principale. Il minuetto è una danza in tre quarti. Uno, due, tre, uno, due. È in tre quarti, ma è un tempo più largo rispetto al valzer. Lo ballavano i nobili con il crinoline, con movimenti molto più impacciati. E quindi questo ritmo, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno. È sì un ritmo di danza, ma la danza talmente ingessata che è quasi una danza da giardino, con l'orchestrina che suona dentro al gazebo, in modo molto semplice, dove però l'elemento ritmico è l'elemento principale. Però qui Mozart, nel 1774, quando il forte piano stava solo cominciando a essere divulgato, Mozart comincia a mettere in modo evidente i colori. Forte come se prendesse tutta l'orchestra. Di nuovo il primo violino, poi tutta l'orchestra. Attraverso il forte piano Mozart riesce, attraverso uno strumento da casa, riesce a inserire una piccola orchestra in casa. Oggi noi abbiamo le tastiere elettroniche, ci sono anche appassionati che non conoscono la musica, ma attraverso il computer e la tastiera elettronica riescono anche a fare cose anche divertenti a volte. Con il forte piano Mozart dà la possibilità di immaginare una piccola orchestra in casa. Dicevo, il minuetto è diviso in tre parti, minuetto, trio e minuetto, di nuovo. Il minuetto è seguito da un trio perché il trio prende il nome dal fatto che veniva di solito eseguito da tre strumenti. Poi non è sempre stato così, ovviamente, però veniva eseguito da tre strumenti. E anche qui abbiamo una parte superiore, una parte centrale e una parte interna. Se le suono tutte insieme, al forte e al piano. La domanda e la risposta. La domanda, risposta. Domanda, risposta. Non sono termini che invento io, per darvi un'idea. È corretto definirli così. Una domanda a cui fa seguito una risposta in ambito musicale. Però se ci fate caso, al di là del fatto che può essere piacevole sentire queste linee melodiche, è veramente come se la musica parlasse. Due voci. A volte non occorrono le parole. Nell'opera lirica le parole sono fondamentali. In questo caso sono solo suoni, però che ci danno un'idea di dialogo tra due voci. Un piccolo accenno, ma un'idea di dialogo tra due voci. Dicevo, minuetto, in questo caso una danza leggera ma severa, nobilmente severa, a cui fa seguito un ultimo movimento, che è quello forse meno interessante, nel senso che è più un tempo veloce, quasi una piccola improvvisazione. Era normale che il compositore, esecutore delle proprie musiche, finisse in modo brillante, questo sì, per ottenere il piacere dell'uditorio. Ecco, la sonata K282, K sta per Kegel, era un musicologo che si preoccupò di fare una sorta di catalogo, un catalogo cronologico di tutta la produzione mozartiana. Poi, dopo la morte di Kegel, altre pagine sono state scoperte e di conseguenza questo catalogo, che va oltre il numero 600, ha avuto delle integrazioni, quindi ci sono delle opere con il numero e poi la A, altre con lo stesso numero e poi la B, perché doveva essere inserito un po' come i numeri civici di una strada. Mozart scrisse questa sonata nel 74. Dicevo, il fortepiano, che era stato ideato nel 1699, in pratica non si affermò subito, cominciò gradualmente ad affermarsi, ma fu preso in considerazione da quei compositori che hanno lavorato nella seconda metà del Settecento. Prima dicevo che le cinque sonate K279 e K283 sono state scritte nel 74. Nello stesso periodo Haydn ne scrisse sei di sonate, quelle che nella numerazione di Haydn sono dalla 21 alla 26. E Haydn, che ebbe una vita piuttosto longeva e morì dopo Mozart, scrisse più di 50 sonate per pianoforte, ma di queste 50 solo 4 sono espressamente per il fortepiano. Le ultime 4, tutte quelle precedenti, sono per clavicembalo o fortepiano. Quindi era praticamente un compositore che, pur avendo vissuto oltre gli anni di Mozart, comunque era legato a uno strumento che era quello che aveva conosciuto da giovane. Haydn era del 35, quindi immaginiamo che negli anni 50 avesse 15 anni, andava ancora in clavicembalo. Mozart, nato nel 56, ha cominciato viaggiando a conoscere il fortepiano che sostituivano il clavicembalo, e le sue sonate sono decisamente per fortepiano. Non ultimo il fatto che Haydn visse felicissimamente nella corte dell'arciduca, nella corte imperiale di Vienna. Mozart no, a Vienna non c'era mai, a Vienna nella corte, era a Salisburgo, dove il padre prendeva permessi di 15-18 mesi e viaggiando conosceva cose nuove. Haydn, dentro alla roccaforte di una corte, per quanto musicista celebratissimo e anche molto benestante, in qualche modo fece più fatica, evidentemente, ad aprirsi a un gusto che era quello nuovo del fortepiano. Una delle caratteristiche di questo minuetto è che questo tema lo ritroviamo nella ripresa spostato alla mano sinistra, quella che è la voce più bassa. Questo con il clavicembalo non sarebbe mai stato possibile. Non ci sarebbe stata differenza qua. E non l'avremmo apprezzata qua. Perché il nostro orecchio avrebbe scelto quello che fa normalmente, di sentire le note più acute. E di conseguenza, con un carattere uniforme, questo l'avremmo sentito, ma questo... Adesso magari lo riconosciamo perché lo fanno sentire tante volte, ma il nostro orecchio percepisce le note, le vibrazioni più alte. E quindi in un clavicembalo sarebbe stato impossibile apprezzare questo cambio, è soltanto un cambio di registro. Poi lo fanno i violini e poi lo fanno i violoncelli. Col fortepiano lo possiamo apprezzare, col clavicembalo no. È evidente che nel 74, e Haydn aveva solo 49 anni, il Mozart 18enne scrive pensando allo strumento che da lì verrà. Non ci sono dubbi. E poi dei piccoli particolari, ecco, questo sì che è ancora indicativo di come il clavicembalo comunque fosse lì latente. Nel primo movimento questo è un trillo, i cosiddetti abbellimenti, il trillo, il gruppetto di note, l'arpeggio sono chiamati abbellimenti nella grammatica musicale e servivano a dare risalto a una determinata nota. Col pianoforte si avverte. Col clavicembalo non ci sarebbe questa possibilità, e allora la nota veniva ripetuta con un trillo. Per sentirla meglio, era una pratica tipica del clavicembalo che Mozart comunque utilizza ancora in parte.